English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera vi portiamo in India. Ci andiamo davvero grazie a un incontro che abbiamo fatto proprio qui a Radio 24 con una splendida attrice e ballerina indiana. Lei si chiama Bhavna Pani ed è la star di questo Bharati, di questo spettacolo che arriverà anche in Italia. Sarà dal 22 al 27 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Uno spettacolo di danze, di costumi, di colori, uno spettacolo che vuole raccontare l'India. E questo ce l'ha proprio detto la protagonista Bhavna Pani. This show that has been created has basically tried to capture the essence of India. The colors, the flavors, the dances, the music, and everything that's very authentically Indian. And it's all done in a very entertaining fashion, with the help of a very happy ending love story. Love being the universal language everybody understands. It's a love story between this NRI, which is a non-resident Indian boy, and a girl that's born and brought up in India, and how this guy with Indian roots discovers India all over again, discovers his roots, his tradition, his culture through this girl. So Bharati is basically a metaphor for Bharat. Bharat means India, so she represents the country. Eccola qua la nostra Bhavna Pani con questo inglese straordinario. Mi piace proprio sempre tanto l'inglese parlato dagli indiani, anche perché è estremamente chiaro. Estremamente chiaro, poi soprattutto per noi stranieri, appunto, sentire altri stranieri che parlano un inglese grammaticamente perfetto, però senza l'accento forte inglese, ce lo rende più chiaro. E per il resto, appunto, è un tipico accento indiano, magari ormai avete imparato a distinguerli. Questo viene anche chiamato Pidgin English. This show has been created, dice lei, che insomma è sicuramente ci suona, però come vedete usa una forma verbale molto complessa, has been created, quindi è stato creato lungo un certo corso di tempo, quindi un inglese appunto correttissimo, però parlato con questo accento così caratteristico. Ci sono davvero, secondo lei, degli ingredienti che lo rendono autenticamente indiano? Quindi authentically Indian, quindi naturalmente ha fatto l'avverbio di authentic, quindi authentically, attaccandoci l'L e la Y, e in colors, the flavors, the dances, the music. E poi qui è interessante l'uso della parola fashion, perché fashion naturalmente sappiamo che è moda, però vuol dire anche modo, attenzione, quindi un false friend in un certo senso, perché qui appunto lei dice authentically Indian, ma in che modo? In a entertaining fashion, in un modo che intrattiene, quindi non in una moda che intrattiene, ma proprio il modo in cui è fatto lo spettacolo. Ci sono degli ingredienti che poi sono anche quelli degli spettacoli, dei film di Bollywood, dei quali poi parleremo più tardi proprio con Bhavna, ad esempio la love story che finisce bene. Ecco, qui ricordiamoci che se vogliamo proprio dirlo corretto non dobbiamo dire un happy end, che è il finale felice, ma se lo usiamo come aggettivo dobbiamo sempre dire un happy ending, quindi questa per esempio è una happy ending love story, una storia d'amore che finisce bene. E qui, forma complessa anche qua, love being the universal language everybody understands, poiché diremmo in italiano, poiché l'amore è il linguaggio universale che tutti capiscono. Una coppia particolare, tra chi scoppia quest'amore? Questo Indian boy, che in realtà è un NRI, che scopriamo essere un acronimo per non-resident Indian, è una ragazza, una girl, which was brought up in India, quindi che era cresciuta in India. Ovviamente c'è la scoperta di queste roots, di queste radici, e il fatto, lei sottolinea, che sia una metafora poi questo spettacolo. Sì, perché come sappiamo questo è un tema insomma di tutti grandi paesi con grandi culture, che però sono stati anche paesi di forte immigrazione, quindi quando qualcuno torna riscopre le sue radici e questa scoperta diventa una metaphor, e in questo caso è addirittura la ragazza che è una metafora per l'India, addirittura dice la protagonista, she represents the country, quindi rappresenta proprio il paese. Abbiamo sentito parlare Bhavna delle radici, ebbene scopriamo quanto sono ancora importanti le radici in India. Our culture is a little traditional in nature, which is why we are a little bit more conscious than other, if I may say, compared to other cultures, we are a little more conscious of our roots. But like every other culture, like I was just discussing with somebody a while ago that, you know, like Western culture is also going through a stage. Even now, Indian culture is going through this transitional phase wherein they have this little conflict, you know, between modernity, Westernization and their traditions. So it's a very natural process. But I think the key to it is balancing the best of both the worlds. Avevamo già fatto questo discorso con una scrittrice, se non ricordo male era Anita Nair, che ci raccontava proprio di questa lotta all'interno dell'India moderna tra modernizzazione e importanza ancora delle radici, e lei più o meno ci fa lo stesso discorso. Sì, lo si sente dire spesso, anche per esempio i marchi della moda che vogliono andare in India si scontrano con questo, che comunque in India c'è ancora queste strong traditions e le persone vogliono per esempio vestirsi in modo traditional, quindi per esempio col sari per quanto riguarda le donne. E quindi lei dice "We are a little more conscious than others", e qui è molto delicata perché non vuole, pensa giustamente forse, che sia anche un insulto dire a qualcuno che le tradizioni vengono buttate a mare, quindi dice "If I may say", se posso dirlo, quindi se posso permettermi di dirlo, penso che noi in India "we are a little more conscious than other cultures", siamo più conscious, non vuol dire coscienti, ma consapevoli, siamo più consapevoli di queste tradizioni e quindi anche le diamo loro un valore maggiore than others, che altri, o than other cultures, compared to other cultures. Una grande grazia da parte di Bhavna, che vi assicuro appunto ho incontrato, e quindi una ragazza bellissima e davvero graziosa, e anche nel modo di parlare, nel modo di esprimere questi concetti, e anche quando poi parla del conflitto lo fa in maniera molto delicata. Sì, e tra l'altro qui vi segnalo solo l'uso del verbo to discuss. Lei dice "like I was just discussing with somebody", non è il discutere come lo intendiamo noi, cioè qui non è mai la parola discuss in inglese è spesso usata come una discussione, come forse è auspicabile che siano sempre discussioni calme, non aggressive, cioè non è una, è più una conversazione ma di due persone che magari hanno opinioni diverse, e però invece il conflitto secondo lei c'è, the conflict between modernity, quindi la modernità, e quella westernization, quella occidentalizzazione, e ovviamente le traditions. E c'è una chiave, una key per riuscire a trovare una via d'uscita. Dice naturalmente is balancing, quindi trovare un equilibrio, the best of both worlds, e riuscire a trovare questo equilibrio vuol dire trovare il meglio of both worlds, di entrambi i mondi, quindi quello tradizionale e quello che, tutto quello che viene dal west, l'ovest, e l'occidente, che insomma porta cose positive e cose negative. Ma torniamo allo spettacolo. Questo Bharati ha già girato l'Europa, in particolare in Francia ha avuto un successo molto grande, e mi raccontavano alla fine dello spettacolo il pubblico balla, si scatena, addirittura dicevano con stupore vedono il pubblico fuori dal teatro una volta usciti ancora a cantare e ballare musiche indiane. Ma chissà come mai, perché questo effetto, lo abbiamo chiesto proprio a Bhavna. Yeah, it's true. I mean, I was surprised as well when I was actually a little overwhelmed when I saw the response the first time, the first show. I was like, okay, they really like it. Why? And I kept thinking about it. And then over the years, I realized it has to do with the energy of the beats, the energy that the dancers throw, the singers throw, the musicians throw at the audience. And the audience receives that really well. And because it's live, you know, really your gut can feel the beat. So I guess that's what it is. Sempre graziosissima, dice "ma sì, anch'io ero molto stupita, è vero quello che le ho chiesto, se era vero appunto, se la gente era davvero così coinvolta". Yeah, it's true, è vero. E lo dice con quest'aria ancora molto stupita. Sì, dice "I was surprised as well quella anche, no? Anch'io", che mettiamo alla fine della frase, quindi "I was surprised as well", ma potremmo anche dire, non so, "Do you like ice cream? I like it as well", anche a me piace l'ice cream. E poi però, ice cream a parte, che era solo un esempio, lei dice actually, false friend, che vuol dire in realtà, non attualmente, in realtà "I was a little overwhelmed". To be overwhelmed vuol dire essere proprio travolti, cioè dice "ma diciamo le cose come stanno, non tanto sorpresa, ma qualcosa di più. When I saw the response, quando ho visto per la prima volta come il pubblico rispondeva a questo spettacolo. E poi si è fatta una sorta di discorso interno. I was like, ok, they really liked. Why? Qui questa espressione è molto colloquiale. I was like vuol dire praticamente e così mi sono detta, oppure anche se lo dice qualcun altro è l'uso non un po' così un po' sgrammaticatone che usiamo noi del verbo fare, quando dice e così io faccio e lui mi fa. Ecco, il like è un po' questo. I was like, so he was like, e lui mi fa, and he did. E quindi molto colloquiale, perché appunto riflette un suo colloquio interiore, dice quindi mi sono detta, ok, so they really liked it. Quindi gli è veramente piaciuto? Why? Sì, se l'ho chiesto lei stessa. Anzi, I kept thinking about it, cioè continuava a pensarci e poi si è data una risposta. E quindi anche qui notiamo l'uso di keep e poi che vuole il gerundio, quindi I kept thinking about it. E I realized, qui è una cosa che ormai traduciamo letteralmente, ma è scorretto naturalmente tradurre realizzare, perché vuol dire in realtà in italiano dobbiamo dire rendersi conto, quindi mi sono resa conto che aveva a che fare to do with, come in italiano, avere a che fare con, to do with the energy, aveva a che fare con l'energia, questa cosa che appunto non è soltanto l'energia elettrica naturalmente, ma è quella cosa bellissima che si instaura a teatro tra chi è sul palcoscenico e chi è invece siede in platea. E poi è proprio una questione di musica addirittura che arriva nel profondo, ma non nel profondo dell'anima, proprio del corpo. Sì, qui è bellissimo anche il verbo che usa, the energy that the dancers throw at the audience, quindi che i ballerini buttano sugli spettatori, e your gut can feel the beat, quindi non è soltanto ascoltarlo con le orecchie o vedere questi bravissimi ballerini che si muovono, ma è proprio qualcosa che senti dentro, tant'è che appunto come diceva la Marta poi magari uno esce e ce l'ha talmente tanto nello stomaco che si mette a ballare. E poi devo dire è liberatorio fare un po' di danze indiane, lo spettacolo ci assicurano è davvero divertente ed è piaciuto molto, dicevamo ad esempio in Francia, arriva in Italia in questi giorni dal 22 ottobre al Teatro degli Arcimboldi. E per il nostro appuntamento radiofonico di English 24 è tutto, vi ricordo che il nostro English 24 però è sempre in edicola. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli un saluto e alla prossima puntata di English 24.